Vogliamo fare della sensibilizzazione ai cittadini per raccontargli cosa c'è dietro ai piatti che mangiamo, quindi vogliamo dare dei consigli e spiegare il perché le nostre scelte alimentari influenzano tantissimo il pianeta. Quindi domani saremo davanti all'entrata del mercato delle erbe da circa le 10:30 fino alle 14. In questa attività userete la forma del gioco, insomma coinvolgerete i passanti, esatto. Giusto? Sì, l'idea è quella, vogliamo allestire una specie di set tipo un programma di cucina e far giocare le persone con noi con il cibo. Vi siete ispirati insomma a alcuni programmi televisivi, in particolare quali? MasterChef, perché è molto seguito, quindi il logo richiamerà quello. Giocheremo su quello anche perché avremo delle mystery food box, quindi ho preso molta ispirazione da quello. Quali sono gli aspetti appunto che prenderete in esame a proposito del cibo che appunto è importante che tutti e tutte sappiano? L'aspetto che vogliamo far capire di più è che le nostre scelte hanno un grande impatto sull'ambiente, però è chiaro anche che le scelte del singolo contano tantissimo, ma non bastano, quindi abbiamo bisogno di politiche che guidino il cambiamento dell'abitudine alimentare. Quindi avremo le petizioni e chiederemo quindi ai cittadini di firmarle per far sì che ci aiutino ad unirsi alle nostre richieste, e poi gli spiegheremo piatto per piatto ogni cibo che mangiamo, ogni cibo che acquistiamo, su cosa va a influire. Esempio, la carne è collegata fortemente alla deforestazione, o il pesce allo svuotamento degli oceani, eccetera eccetera. In questi anni in cui il tema sia del cibo che dell'ambiente insomma è tornato prepotentemente alla ribalta anche sulle cronache nazionali e internazionali, secondo te ha aumentato un po' la sensibilità delle persone nei confronti dei propri acquisti? E secondo me in parte sì, il tema è più sentito, però non è abbastanza, perché io vedo tantissimi fast food pieni o tantissima poca consapevolezza anche quando facciamo le attività ai banchetti. Molte persone non sanno ancora molte cose sul cibo, quindi sì, secondo me è aumentata la consapevolezza, ma non abbastanza. Ma è anche vero che parlare di cibo è molto difficile, perché il cibo è abitudine, le persone sono abituate ed è molto difficile cambiare le nostre abitudini. Quindi ricordiamo l'appuntamento? Domani, quindi sabato 26, dalle 10:30 circa fino a dopo ora di pranzo, quindi 14:30, davanti al mercato delle erbe all'ingresso.